Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Benvenuti tutti quanti ad una nuova puntata di Medium, il podcast su Netrunner in Italia. Il primo, direi per ora anche l'unico. Quest'oggi parliamo di Opening Moves, chiaramente essendo un'espansione sono andato un po' a pescare chi potrebbe avere delle idee interessanti per valutare le varie carte e abbiamo due realtà ormai storiche, cioè Gnarlato e Riccardo Flatline, e poi abbiamo un nuovo Francesco, quindi un ennesimo Francesco, che è Balai, lo conoscete perché scrive su netrunner.it. E niente, io direi che possiamo cominciare. Ciao Francesco, ciao Riccardo. Ciao a tutti. Direi che partiamo subito con una bellissima carta che ci ha fatto tutti, come dire, ripensare a rimettere in piedi un mazzo Jinteki, Celebrity Gift. Allora, vi dico cosa fa al volo, è un Operation Double, ne vedremo parecchie di queste, e costa 3 da giocare, è Jinteki, 3 di influenza, appunto essendo Double ci fa spendere 2 click, quindi come costo addizionale per giocare questa operazione spendi un click, essendo un costo se sei all'ultimo click non funziona la carta, direi che proprio non la puoi giocare. Riveli fino a 5 carte dalla tua mano al runner e ottieni 2 per ogni carta rivelata. Riccardo. Visto, con arroganza ero già partito io direttamente. Bella, bellissima, una bella carta che mancava ai Jinteki, finalmente un po' di soldi. Non è... E poi burst come soldi, cioè non sì. Soldi pian pianino, ma... Chiaro, chiaro. Effettivamente è pesante come costo, perché 3 crediti, 2 click, insomma, ha certi requirement abbastanza pesanti. Però... sono potenziali 10 crediti turno pescando una carta. Certo, sveli l'intera mano. Può essere pesante, può essere molto interessante per fare giochini mentali tipici Jinteki. Ma è una gran bella carta, a me piace parecchio proprio come design anche. Sì, sì. Francesco, un Francesco a caso? Allora, per comodità facciamo così, io Cesco, lui Francesco. Ok, vai Cesco. Ci riconosciamo. No, allora, a me Celebrity Gift non piace neanche un po'. L'annovererei tra la pila sempre più alta di cartazze, nel senso che intanto c'è un'operation da soldi che ha veramente troppe condizioni per essere giocata, cioè devi avere 3 crediti, che non è sempre possibile avere 3 crediti e 2 click disponibili con Jinteki che inizia un turno, vuoi perché hai fatto esplodere uno snare, vuoi perché hai rezzato qualche ice, devi avere un numero sufficiente di carte in mano per poterne sfruttare l'effetto, quelle carte devono essere giuste per non dare informazioni estremamente vantaggiose all'altro e praticamente su 2 click tu hai un guadagno massimo di 7 crediti che all'effettivo, considerando tutte quante queste cose, non mi sembra un granché, considerando che un hedge fund hai 4 crediti con un singolo click, che è più del doppio dei crediti per esattamente la metà dei click, senza nessuna condizione se non avere un numero sufficiente di crediti per giocarla. Ovviamente in Jinteki tutto scarseggia di soldi, però è anche vero che si stanno delineando sempre più mazzi Jinteki tra virgolette low cost, che riescono a sfruttare l'economia che già c'è efficacemente, per cui cioè, non mi sembra tanto interessante, specie perché nel massimale del guadagno, se tutte le condizioni sono raggiunte per rendere la giocata sensata, cioè avere i click, avere le carte giuste da farvi vedere in mano, comunque sono soltanto 7 crediti. A me ricorda non molto Melange Mining Corp, per come viene giocata soprattutto in Jinteki, cioè la giro, cioè la rezzo perché non sei venuto a vederla al buio, prendo 7 crediti, spendendo ben 3 click, sapendo che fondamentalmente me la spaccherai al prossimo turno. Più o meno non è tanto distante. Sì, l'eccezione è che Melange Man in Corp, per essere spaccato, insomma, per negartene l'effetto, comunque richiede una proattività da parte del runner. Questa consuma singolarmente il suo effetto e basta. Cioè, potenzialmente una Melange, se non l'hai piazzata lì a caso su un remoto completamente nudo, comunque lui dovrà passare in mezzo a qualcosa, non lo so, una neural, un qualsiasi ice che gli provochi quantomeno una spesa. Viceversa, tu hai di nuovo questa fonte di guadagno, altrimenti hai comunque causato una perdita. Però tutto questo, cioè, senza dover avere necessariamente 5 carte in mano, le carte che vuoi fargli vedere, tra cui io, oltretutto, io mi chiedevo, cioè, devi avere 6 carte in mano per massimizzare l'evento. Vabbè, perché sì, pescata. Cioè, devi chiudere il turno prima con 5 carte e poi fai la pescata e giochi, cioè, di Celebrity Gift. Sono veramente troppe condizioni. Già l'altra carta, Successful Demonstration, a me convince poco, perché hai poco controllo sulla giocata di quella carta, figuriamoci questa qui. Cioè, sono veramente troppe condizioni. Se la peschi devi davvero prepararti i prossimi 2 turni, 3 turni per giocarla, cioè, non vale lo slot, secondo me. Ok, manca un Francesco. Io vado e concludo, sarò celere. Io do voto 10 per l'immagine, perché è una delle carte visivamente, graficamente più belle del gioco, secondo me. È tanto pucciosa quella giraffetta nana nella borsa. La giocherei solo per questa, premesso. Per quanto riguarda invece l'efficacia della carta, appena l'avevo vista mi era molto piaciuta, più che altro per via dei giochini mentali che puoi fare, grazie anche alla nuova carta che poi commentiamo dopo, l'executive dell'NBN, che puoi fare veramente sporchi trucchi. Però poi alla fin fine è una delle classiche condizioni Gintech in cui vedi che c'hai 2 carte che tra loro scombano da Dio, ma devi mettere insieme quella situazione. Quindi nel caso realistico, effettivamente, come diceva Cesco, per massimizzare l'effetto devo avere 6 carte e liberarne 5, e a quel punto, giocato come corp, sto un passo avanti al runner, perché metto le carte a faccia in giù, non le rezzo. Se pure gli devo dire quello che si deve aspettare nei prossimi turni, la vedo male, insomma, la vedo brutta. Non l'ho ancora provata, devo essere sincero, manco proxata nel Gintechi, quindi sull'efficacia del campo non te lo so dire. Però ecco, il mio giudizio adesso è più freddo rispetto alla prima volta che l'avevo vista. Ok, vogliamo dargli un voto da 1 a 5? Per me è un buon 3,5, sinceramente. Una bella carta, secondo me anche giocabile. Chiaro, c'è economia migliore, però c'ha tutta l'HB, quindi il Gintechi si adatta a quello che può. Io gli do anche tranquillamente anche un 4, per il semplice fatto che è il quarto, quinto e sesto Melange Mining Corp, a mio modesto avviso. E quindi quando vorrei metterne 6 e non ne posso mettere solamente 3, comincio a mettere Celebrity Gift. Per me invece è un 2, non un 1 perché ci sono carte orrendamente peggiori, un 2 perché comunque può trovare spazio, secondo me non in Gintechi, ecco, sono onesto, però può trovare spazio. La vedo meglio in un NBN per fargli vedere un mid-season replacement in mano e mettergli il dubbio tutto lì. Quindi direi 2, rimane comunque una brutta carta. Anche io gli do 2. Il futuro ci saprà dire se avrò ragione oppure no. Passiamo a Character Assassination. Allora, è un'agenda NBN, costa 4 da avanzare e ti dà 2 punti agenda. Nel momento in cui la scori, spacchi una risorsa. E non può essere, addirittura non può essere prevenuto. Esistono robe che ti prevengono dallo spaccare risorse? Sì, quelle che rompono i link, tipo Firefox. Ah, ok. Sì. Va bene, io non so che dirne a riguardo, non riesco veramente a valutarla. Voi che mi dite? Beh, a me, prima di tutto, di nuovo, lo ripeterò per l'ennesima volta, ma finalmente si sono resi conto della cavolata che avevano fatto con le agende 3-2 e le stanno facendo 4-2. Se non Bravi. Altro. Questa sì, è la prima cosa, quindi un plauso alla Fantasy Flight che è tornata indietro su quell'enorme vaccata che aveva fatto. Detto questo, a me l'abilità piace molto. Un trash diretto di una risorsa Katie. È molto molto interessante. Katie, per dirti, cioè, può essere potenzialmente devastante. È l'unico, chiaro, che mi viene in mente pesante. O Katie o Professional Contact. Sì. che ancora ah no, l'abbiamo già visto. Ci sono i mister, insomma, ce ne sono anche di risorse che possono essere interessanti. Poi chiaramente è un gioco molto tattico, quindi magari che ne so, anche sei stretto con il runner, sta stretto con i soldi, anche tirargli giù un daily cast può essere utile. Certo, chiaramente è telefonata da lontano un chilometro, perché comunque diciamo che secondo me è un'agenda che troverà assolutamente spazio in un NBN. Però l'abilità è ottima. Secondo me è una carta onestissima, giocabile, interessante. La vedrei, non so. Ok, intendono dire qui che è un come dire, l'assassino non è fisico, ma è un come dire, una palate di fango su qualcuno. Però l'assassino lo vedevo molto di più sul Wayland, comunque. Cesco? Allora, innanzitutto la cosa più straordinaria di questa carta, in assoluto, è che NBN ritiene il professore una minaccia. E questo lo trovo quantomeno profetico. Per la verità, se parlando della carta in sé, allora in sé non è brutta, anzi è un'agenda piuttosto figa, cioè una 4x2 spacca la risorsina, la puoi scorare, cioè, la puoi riuscire a scorare al momento giusto, cacciare via una Katie, cacciare via un professional contact, è proprio bella. Il problema qual è? Il problema è che esistono le 3-2. Non gioco AstroScript, non gioco Project Beal, non gioco la PSU, PSF in NBN. Che cosa tolgo per metterci questa qui? Secondo me è un sostituto a PSF. Beh, assolutamente no, perché PSF è una condizione di vittoria. Questo qui è un ostacolo per il runner. Dipende molto dal mazzo. Di base è veramente difficile che un NBN non abbia almeno due meccaniche dentro il mazzo che puniscono per attaccare. Io giocavo un NBN praticamente Douglas, cioè un Never Advance classico. D'accordo. Però, in quel caso magari giochi questa piuttosto che PSF. Esatto. Infatti magari giocavi Corporate War, non lo so. Guarda, veramente non mi ricordo, sì, neanche. Può essere un'alternativa, cioè la carta in sé è forte, cioè questo qui fosse stata una Wayland, una Gintecchi, cioè, sarebbe stata una cartona. Però io non credo che troverà spazio se non appunto in forme particolarissime di NBN, o quantomeno atipiche, fuori meta, ecco, se mi concedete, non so che cosa, concedetemela. sì, tanto alla fine fondamentalmente le risorse NBN, se vuole, le trascia ugualmente, di sicuro, senza spendere 4 click per 2 punti, quindi non saprei, cioè, non dico che il testo è vuoto, però dentro questa fazione non ci sta. Fosse stata neutrale, questa agenda sarebbe stata cosmica, ragazzi, cioè, sarebbe stato qualcosa di giocatissimo. Così non credo. Guardando anche le altre 4-2 che sono uscite in generale in questo pack che usciranno, a me, devo dire, piace come testo in quanto tale, insomma, come when you score ability della carta stessa. Come dice Cesco, diciamo che fitta meno nel discorso dell'NBN tag punishment, perché non dà un punishment legato al tag, però il punishment ce l'ha lo stesso, quindi facendo delle partite con l'NBN io devo dire che non tantissime volte sono riuscito a triggerare la PSF, oppure magari solamente a fine turno si è preso un tag che non si era calcolato il runner, per cui ho cercato di stallarlo un minimo. Secondo me da 3 PSF si può passare alla composizione 2-1 e vedere un attimino cosa succede. Poi si può fare un attimino una prova, se si vede che in effetti ha pagato il momento giusto, poi naturalmente lei deve entrare al posto della PSF che sostituisce al momento giusto, questo va da sé, se no è una 4-2 senza testo alla fin fine. Io gli do al massimo un 3 in generale. Vabbè, io per concludere un 3,5 comunque glielo do, perché il testo è un buon testo alla fin fine, cioè sì, lasciare una risorsa. Magari a sorpresa c'è una Katie Jones che risulta essere carica, perché il runner non pensa che quel turno riesce a arrivare con 12, 15, 13, non lo so, se si distrae un attimo eccolo lì che gli do 8 soldi. Secondo me è una carta da 4 molto bella, la ridotta a 3,5 per i discorsi sul meta, però secondo me è una carta dignitosissima, molto molto interessante e giocabile nel mazzo giusto, ovviamente. Sì, concordo anch'io, un 3 è un buon voto, al momento non trova spazio, però alla fine è una carta che killa qualcosa senza nessun tipo di precondizione di alternativa, quindi di sicuro in futuro una roba questo del genere sarà fortissima, dall'esperienza di tutti quanti i giochi di carte che ci possono essere, quelli che ammazzano qualcosa sul tavolo senza che possa essere fatto niente sono e diventano carte fortissime. Comunque lo sentite questo telefono in lontananza? Questo è il professore che squilla e dice no, questa è una carta che fa schifo. Mi mancherebbe. Comunque, Cyberdex Trial costa 0, è neutrale, non ha punti di influenza, ormai bisogna dirlo anche per le neutrali, e purga tutti i virus come se avessi fatto l'azione standard, spendo tutto il turno e purgo i virus. È una carta, come dire, pronta, sta lì pronta ad essere inserita nel caso ci sia un heavy virus meta, per il resto non so, direi che sì, no, è il carapace, appunto. È il carapace, sì. Dei virus l'unica differenza è che il carapace dei virus esiste già, si chiama usa 3 turni per purgare tutti i virus. Sì, esatto. Quindi sì, io la mia, cioè è una carta da 4 se il meta è super pieno di runner che con 100 virus, o comunque se c'è una combo speciale per cui devi purgare e fare delle azioni, se invece la combo super speciale non c'è e il meta non vede tanti virus, sta lì che aspetta di intervenire al momento giusto. Sappiamo che c'è. Confermate? Sì. Via. Non gli do nemmeno un voto perché essendo così dipendente dal meta non ha senso nemmeno votarla. False Echo, allora, è un programma a 1 di memoria, faction cost, quindi influenza 2. Quando passi un ice che non è stato rezzato, lo puoi trasciare False Echo. Se lo fai, la corporazione deve rezzare questo ice oppure aggiungerlo alla propria mano. 2, 1, 2, passiamo oltre o volete dire qualcosa? 0, secondo me è proprio inutile sta carta, onestamente, è veramente qualcosa di terribile. 1, sì. Vabbè, dimenticavo di aggiungere che è una carta scevero, forse mi è saltato. Quindi, sì, giusto. Fosse stato criminal, magari uno ci poteva pure pensare. Ma c'è l'hanno risorzenaria, ma così. È overwhelming, capito? Sì, fondamentalmente fa quello che fa Forged Activation Order, però devi installarlo, usare la memoria, farci una run e sperare che lui non lo rezzi. No. Cioè, quindi la corp sa che quello è potenzialmente attivabile, quindi e poi te lo rimetti in mano, ragazzi, cioè il turno dopo click lo rimetto, cioè a meno che non hai scombinato l'ordine degli ice perché magari c'era un chum che è andato giù e quant'altro, ma non ha senso. No, proprio. Dai, uno e passiamo oltre. Frame Job. Ah no, non passiamo oltre. Continuiamo con questa galoppata attraverso le carte che non hanno senso. Frame Job costa 1, è una carta Anarch. È un evento double, perché guarda, fosse stata anche mono non aveva senso comunque. Comunque, come costo addizionale per giocare questo evento spendi un click. Forfettizza un'agenda, se lo fai dai alla corpo una bad publicity. Wow. Diciamo che se a Netrunner si giocassero solamente agende da un punto, uno potrebbe forse pensarci, magari, forse se, ma così è proprio inutile. Non so se lo sai, Riccardo, ma quando nel vecchio Netrunner tu potevi forfettare i punti, non le agende. Poteva quindi avere senso, allora. Ci poteva aver senso in quel caso, perché forfettizzavi un singolo punto, magari ci poteva stare perché sapevi, che ne so, che la prossima agenda che andavi a pescare comunque ti portava a 7, a prescindere magari dalla quantità, perché magari sei a 6, che hai già scorato 6 agende, però boh, non lo so. Vabbè, uno, andiamo avanti. L'unico uso che trovo a questa carta è per tentare di battere la corp a mazzo quando hai fatto 6 punti agenda, te li forfetti e continui a rannare finché non ci sono più abbastanza punti agenda nel mazzo della corp per fare l'achievement, diciamo. Ah, per fare l'achievement durante sì, i tornei. Sì, sì, beh, questa qui è fichissima. Per il resto proprio... Vabbè, o dai, anche come sotto bicchiere. Buona per tenere sul tavolo. Sotto bicchiere non è male. Ok, geothermal fracking. Si parla molto di fracking in questo periodo, ce l'hanno messa dentro anche quelli della Fantasy Flight. È un'agenda di Wayland. Costa 4 da avanzare e 2 punti agenda vengono erogati. E niente, quando hai fatto l'agenda, metti quanti sono? Due agenda counter sopra di essa. Spendi un click, togli un agenda counter e ottieni 7 e una bad publicity. Quindi sì, fondamentalmente fa hostile takeover due volte. Mi sbaglio? Concordo. Anche i costi sono gli stessi. Anche i costi sono gli stessi, quindi è doppio hostile. In una botta sola fai due hostile takeover. Anche se poi in realtà puoi scegliere quando generare questa cosa e non come hostile takeover che la becchi subito. A me piace, non so voi. Carina, sì, mi piace molto. Dignitosissima, giocabile. In puro stile Wayland. Io la trovo veramente potente come carta per da giocare in combinazione con... non in combinazione, però una volta scorata è la carta perfetta per massimizzare... come si chiama? Corporation War? Corporate War. Corporate War, esatto. Veramente straordinario. Sì, giusto. Giochi Corporate War veramente... e i set ce l'hai sicuro. Sì, diciamo devi un po' gestirti coi click, però una volta fatto, cioè tu hai un guadagno di 14 crediti che ti porta un vantaggio devastante, ti permette di fare delle trace senza infatti senza secondo me, infatti Cesco, questa qui è carina sul tag and bag, perché hai bisogno di tanti soldi subito, magari al momento giusto, e quindi in quel momento ti becchi le due bad pub, però fai delle trace imbattibili, tipo con mid-season replacement, e sei sicuro che l'avversario si becca, che ne so, 10 tag che non si toglierà mai, e ti puoi permettere il tempo di aspettare che arrivi la tripla Scorched Earth se ha giocato Plascrit piuttosto che altro. Esatto. E in più questa agenda, se scorata, pone Wayland completamente al di fuori della meccanica che si verrà di sicuro a giocare oltre ogni limite del mega costo per rezzare gli Ice con Regina Roy. Ah sì, ok, tutto il denial, sì, proprio... che gli Anarch possono fare. Con un po' di accortezze ai primi turni Wayland riesce a proprio palleggiarselo tranquillamente. Non solo, io ho anche un'altra cosa: il discorso di prendere bad publicity spinge anche il runner a farle le run, e tu tutto sommato vuoi che le faccia come Wayland tag and bag, eh? Certo. Tu vuoi che il runner corra tanto e dagliele queste bad publicity, convincilo a fare le run. Non è male come mossa, anche a livello psicologico, diciamo. Sinergica, infatti. Sì, poi staremo a vedere le meccaniche interessanti che coinvolgeranno le bad publicity anche nelle prossime, perché a quanto pare sarà tutto champagne con le bad publicity. Staremo a vedere. No, beh, si è intravisto qualche nella pagina della Fantasy Flight, qualche carta che toglie, qualche carta che mette, qualche carta che se c'è la bad bad publicity, questo genere di cose, si vedrà. Quindi forse no, comunque, si sinergizza anche di più. Chissà. O meno. Sì, oppure tipo... Ma già se c'è la possibilità di togliersele, questo c'è di sicuro, anche se è engine techy per il momento, però ci sarà di sicuro, questa guadagna ancora più punti. C'è anche in Wayland, mi sembra, è uscita. Non so se era un'agenda o qualcosa del genere. È un asset. Che un quando asset. Entra in gioco togli una bad publicity. Ah, è vero. No, vero. Sì, però io quando te la rubano, io... quando te la trasciano te la dà una bad publicity, se non mi ricordo male. In ogni caso il mio voto qui è un 4 pienissimo, un'agendona veramente fortissima, altro che Thomas Sass per fare da tesoro contro gli account siphon. Qua c'hai 14 crediti a uso ridere quando ti pare, più 2 punti per 4, cioè veramente fortissimo. Sì, confermo anche io il 4. Anche secondo me è una gran bella carta. Devo essere sincero, la valuto un po' di meno, anche perché cioè, i soldi questi già ce l'hanno, il Venom già c'ha i soldi, dagli altri soldi, non lo so quanto sposti sinceramente. La carta in sé è forte, per carità, se la carta fosse bianca, se fosse un neutrale probabilmente gli darei pure 5. Sì, una Madonna, sicura. Però il fatto che viene data economia al corpo, che economia ce l'ha, mi fa abbassare il voto. Poi tra l'altro, guarda, gli avrei dato 4 se non dovevi pagare il click, certo, per prendere i soldi. Potevi farlo magari una volta a turno, veniva specificato, ma senza click. Quindi magari se ti serviva un qualcosa anche nel turno dell'avversario, tu a buffo lo facevi, pompare una tressa a sorpresa per bloccare su un Caduceus, per esempio, che te lo fanno girare, tanto non hai soldi, fai un Caduceus da 27 kilotoni di euro e pupa. Quindi io gli darei 3,5, facciamo 3,5, perché comunque è forte, perché era. Però dato, ripeto, un'economia a chi già economia, mi sembra ridondante. Permetto però di farti notare una cosa, che questa carta non è non è necessariamente complementare o stealth takeover, ma può essere sostitutiva, liberando quindi degli slot nei mazzi Wayland tipici già esistenti, avendo più o meno la stessa forza economica. E questo secondo me è valore aggiunto. Ma sì, no, per carità, ripeto, è forte, però considera che faccio fatica a togliermi uno steel take cover, sia perché te lo scorri dalla mano, sia perché lo dai in pasta all'Archer senza pensarci due volte. Sì. Mi sembra, ripeto, è la ridondanza che non mi fa dare 4. Allora, andiamo avanti. La prossima, yes, la prossima che andiamo a vedere si chiama Gorman Drip versione 1, quindi V1. È un programma, costa uno di memoria, quando è uno di faction cost di influenza ed è blu, quindi criminal, ogni volta che la corporazione spende un click per pescare una carta o per ottenere un credito non attraverso abilità delle carte, metti un virus su Gorman Drip V1. Abilità successiva è click e trascia Gorman Drip, ottieni un credito per ogni virus counter che c'è su Gorman Drip. A me non mi stuzzica molto come carta, voi che mi dite? A me piace, è molto una carta secondo me piuttosto giocabile. Il limite, se vuoi, è blu. Non ce la vedo in un in un criminal molto. Cioè, come background sì, assolutamente, ma come diciamo a livello di gioco non la vedo. Però faction cost 1 la vedrei, sì, bene su un Anarch. Anche te la tutori, perché è un virus. Io l'unico problema che c'ha questa carta, che non me la fa piacere molto, diciamo, in termini di gioco, è che stai punendo una corp con questa carta, che è già in crisi, perché una corp che sta cliccando per crediti o, sì, carte è in una fase, insomma, della partita in cui non sta messa proprio tanto bene, di solito. Quindi se vuoi è una carta, boh, non lo so, punitiva la vedo. Una win more card. Esatto, non la definirei win more, la definirei lose more per la corporation, insomma, cioè, capito? È proprio come idea di fondo, non mi piace tanto. Non lo so, boh. Però, cioè, ripeto, la carta è bella, è giocabilissima, secondo me, è un 3 pieno assoluto, insomma. Francesco. Allora, io invece mi piace più di quello che dice Riccardo, perché comunque innanzitutto è un virus che mi costa uno di memoria, di influenza e di costo di crediti, quindi nell'Anarch ci sta benissimo, svolge tutte le funzioni che deve fare nell'Anarch, cioè me lo tutoro come stavi dicendo te col Gin, gli trascio una carta e ci faccio pure i soldi quando mi pare e piace, appunto, prima. Punto secondo, il fatto che sia programma me la fa piacere anche in un criminal, soprattutto se gioco un criminal dove vado di siphonate pesanti e non voglio giocare risorse che non siano l'all same, tra parentesi, siphon o il bank job da spararti così appena apri una campagnuccia lì fuori. Quindi tu lo metti lì, io ti sifono a morte, tu passi il tempo a pescare, io ci faccio i soldi, me lo trash, ti risipono a morte e vai con Dio. Quindi gli do un 5. 5 addirittura. Sì, a me piace proprio tanto questa. Va bene, va bene. Dimostraci che è una forte carta facendo un mazzo che ne usa in 3x. No, io un 4 comunque glielo darei, perché mi sembra una carta che anche dal punto di vista psicologico mette la corp in una situazione di dover fare una scelta comunque difficile, o comunque diciamo mette la corp in una situazione di dover dire: cosa faccio, perdo un turno, gli tolgo tutta questa roba che ha accumulato, oppure continuo con i fatti miei, dandogli la possibilità di trasciarla al prossimo turno. Mi piacciono queste carte qui, dal punto di vista anche del design mi sembra molto bella, aggiunge al gioco piuttosto che magari, che ne so, un Biotic Labor che invece inaridisce il gioco. Sì, anche io do un 4 pienissimo su questa carta. C'è scritto un gigantesco account siphon, è ancora più un gigante vamp, proprio no, questa qui è una grandissima carta. Adesso su questa carta secondo me si potranno realizzare delle tipologie di mazzo che prima erano state soltanto tentate con molta malasuerte, con il feromone, questo genere di virus qui negli Anarch e nei Criminal, anche soprattutto con Will per quanto riguarda gli Anarch. No, bella, niente da dire, proprio bella. Okay, siamo abbastanza conformi, tranne Riccardo che invece me la sottovalutava un po' di più, ma secondo me, cioè, le motivazioni di Riccardo sono abbastanza solide, anche le sue, quindi vediamo un attimo che cosa ne esce, magari con le uscite delle nuove espansioni all out diciamo diventa subpar, quindi nessuno la usa più, oppure potrebbe diventare valida. No, ma è validissima, però ti ho detto, è una crudeltà, insomma, non... È cattiva come un Biotic Labor, secondo me, a livello di gioco. Non lo so, non mi piace da quel punto di vista. Poi, ripeto, se devo fare un certo tipo di mazzo e menare perché voglio vincere il torneo, ci va tutta una carta del genere. È molto forte. Sì. Ok, passiamo a Grim. Yes, Grim. Questo io lo passerei molto velocemente. Allora, è un Ice, neutrale, 0 di faction cost. Quando lo reggi prendi una bad publicity... ha 5 di forza e l'unica sub routine è Trash One Program. Buh, non lo so, a me non piace. È una di quelle carte che quando funziona è pesantissima, se no è praticamente una carta morta. Però sinceramente... Ah, ecco, la grafica è fighissima. A parte quello, ma è anche pensabile, giocabile secondo me come carta. Certo, non in 3x assolutamente. Però può essere quella, sai, la pedina impazzita nel mazzo. Ma sì, esiste già Roto Tour. Vabbè, ma quella lì è una 4-0, questa è una 5-5. Sì, è vero, sì. Sono due cose diverse. Roto Turret è pensata per far finire una run. Questa è pensata per... Io ti ammazzo quel programma, se non hai tenuto in conto il fatto che io possa avere un Grim nel mazzo. E in alcuni mazzi può essere pesante. Per carità, adesso con tutta la ricorsione che c'è, magari è un po' svalutata. Però... classico mazzo che c'ha un paio di breaker per tipo, ti spacco il breaker che ti serve a entrare nel mio remoto, io comincio a scorrere agenda finché tu non lo ritrovi. O Gin, esatto. con o stato con tre programmi su. Con tutto il carretto di programmi, certo. Secondo me è un... non lo so, un 2.5-3, qualcosa del genere. Ma sì, via. Io un 2 io lo do. Sì, anch'io un 2.5, più che altro perché è l'unica vera possibilità out of faction di trasciare programmi per tutti. Che ci voleva, insomma, assolutamente, visto che ormai i programmi sono qualsiasi cosa. Cioè, una volta i programmi erano i breaker e qualcosina che faceva cose diverse, ora i programmi sono tutto. Bisogna dare la possibilità a tutti di rompere un magnum opus se serve. Sì, beh, non tanto quello quanto un virus, più che altro un medium, questo genere di cose. 2.5. Francesco? Allora, io gli do 3 solo perché mi posso riprendere lo schiribizzo di buttare quantomeno su carta un vecchio mazzo che avevo fatto, ma proprio mesi fa. Era un HB Program Trash che andava proprio con 3 segretarie, 3 Sherlock, 3 Rato Turret, 3 Ici, proprio così. Solo che era un mazzo molto fun, più che altro per il runner, più che per la coppia, che qui si divertiva molto, io mi divertivo molto poco. No, ci credo. Con questo magari posso ottenere qualche cosina in più perché aumento il trash, quindi gli do 3 proprio per questa speranza, per questo vecchio ricordo. No, poi effettivamente, cioè, alla fine dai la possibilità di mettere un trash a sorpresa, uno per, te la puoi mettere tranquillamente fuori casata. Sì, sì, uno perso. Sta lì, se tirata fuori al punto giusto, rompi le scatole assai. Se ti arriva troppo tardi, classico, ho pazienza, una carta morta, ma come ce ne possono essere anche un Ice Ball pescata in endgame? Insomma, anche Roto Turret, in certo esatto, caso. Come Roto Turret pescata in endgame o quando c'è già lo Chimera. Esatto. Quindi uno per nel mazzo per me si prova, si prova. Tre. Ok. Oh, passiamo invece adesso a i Mitsubako. Ci piace, non lo so, a me piace molto. Costa 2, ha 2 di forza, è un Ice Barriera. Barrier, Jinteki. Yeah! E al costo di un credito come abilità te lo riprendi in mano. Come Sabrutin a End Run, molto semplice, ma che vuoi di più? A voi la parola. Allora, prima di tutto, sempre per il lato quello delle informazioni inutili che non servono a niente, gli Mitsubako ho appena scoperto che sono quelle scatolette piene di tasche segrete che per aprirle bisogna muoverle in un certo modo. Sono cose, quelle scatole giapponesi, insomma. Quelle giapponesi, sì. Ok. E detto questo, a me piace tantissimo questa carta. Secondo me è un 4 netto, è l'end run economico che mancava al Jinteki. In pieno stile Jinteki ha anche una Sabrutin extra, che a me non dispiace per niente, perché il poterselo riprendere in mano significa poterlo spostare su un altro server, significa mi è entrato in mano, ho 4 carte, ho 2 carte, una di queste è un'agenda, prendo in mano un Ice, c'ho meno probabilità di pescarmi l'agenda. A me piace moltissimo come Parasite carta. Parasite, sì, è immune agli spacca Ice piccoli, che non è cosa da poco. Tutti i cosi, tutti i vari Kaisa Programs. Sì, sì, se chiaramente se un Kaisa Program finisce là sopra, finisce nel cestino in un attimo. Cioè. Quindi è molto molto interessante come carta, a me piace molto. E poi soprattutto è finalmente un end run piccolo, veloce, per i Jinteki che gli mancava. Era proprio una delle tante pecche che avevano, forse la più grande. Sì, perché tutti a splashare Ice Wall, che effettivamente è molto forte, probabilmente uno degli ice più forti, però anche i Mitsubako non è male. Rispetto a Ice Wall è praticamente stessa identica proporzione. Ice Wall c'ha un potere secondo me un po' più forte, però cioè, validissimo in faction, validissimo assolutamente, sì. Per me è un 3,5-4 facile. Per me è anche un 4 senza nessun problema. Cesco? Ragazzi, questa qui è una carta fenomenale, cioè è proprio fenomenale, nel senso che quello che puoi fare con questo, cioè poteva esserci scritto qualsiasi cosa dopo quel ad Mitsubako, poteva anche esserci scritto niente. La cosa fenomenale è che tu, pagando un credito, te lo puoi riprendere in mano e poi reinstalli un Ice a faccia in giù, esattamente di dovere. Ora, che tu hai reinstallato i Mitsubako, che tu hai installato una Neural o che tu hai installato un Wall of Thorn, lui non lo sa. È fantastico. È il bluff permanente, oltre che la difesa estrema in caso di qualcosa da proteggere. Questa carta è fantastica, senza contare che sempre andando avanti in una visione futura ci saranno sempre più carte, senza dubbio, con when approach, when encounter effect, più che altro when approach, che con questa carta possono triggerare senza che però si abbia l'opportunità di breakare. Insomma, straordinario, cioè tutte queste abilità flash, questi trick particolari sono fantastici, oltre appunto il fatto, come ha detto, di un rank un successo sull'headquarter, lo riprende in mano e stiamo un po' a vedere, ma anche soltanto in HB la possibilità di, per dire, installare un Ice coperto ogni turno a costo virtualmente zero, riprendendotelo in mano, non benefici di alcun credito, però stai installando sempre un Ice coperto, che puoi dare l'impressione di installare sempre lo stesso run dopo run, lui ci va e tiri sempre sui Mitsubako, poi tirerai su la cosa brutta che non si aspetta immaginando che tu faccia sto trick, no, è veramente bellissimo, è formidabile. 5, assolutamente. Bene. Francesco? Io concludo con 4. Più che altro sono curioso di vedere se sostituiranno i tre Ice, diciamo, se i tre Iceball verranno sostituiti dai tre Mitsubishi Baco, e a quel punto quei tre slot di influenza come vengono spesi. Quella secondo me è la cosa più interessante della carta. Perché sì, è vero, il giochino mentale di lo prendo in mano, mi ci ricopro e faccio tutto, però in fin dei conti, alla fine, la maggior parte dei casi credo che lo userei come semplice tra virgolette ice, e lo riprendo in mano solamente in casi particolari, quindi voglio vedere allora a quel punto come sostituire i tre ice world, tutto lì. No, comunque effettivamente sta cosa del fatto che lo puoi rimettere da un'altra parte, io mi immagino per esempio inizio partita, ho due agende invece che una, o una agenda invece che zero in mano, quindi voglio proteggere il mio headquarter, magari so che se non lo proteggessi non ci sarebbe nessun problema, nel senso non sto giocando contro Criminal e contro Account Siphon, metto i Mitsubaku, poi quando le agende o l'ho esplorato oppure per un motivo qualsiasi l'ho rimesse nel mazzo, me le vado, cioè vado a togliermi i Mitsubaku dall'headquarter e magari lo uso dove mi è più utile, tipo server remoto piuttosto che R&D. No, è molto strategico averceli nel mazzo, e molto tattico quando poi ce l'hai a terra. Ed è effettivamente molto Jinteki, anche per quello che diceva Cesco. Sì. Ok, io sì, guarda, mi avete convinto, passo da un 4 a un 5. Mi avete molto, cioè questi utilizzi in più che mi avete tirato fuori me lo fanno rivalutare ancora di più. Passiamo oltre? Sì, forte. Faccio un piccolo inciso, il Mitsubaku è anche figo quando la run tu non la vuoi andare, metti che sotto c'è un Chum, dopo che l'hai fermato un po' gliel'hai fatto annusare, lo tiri su mentre lui sta runnando e lui si schianta sul Chum. O si caga sotto e fa jackhammer. Esatto. Ah, ok. Sì. È come quando fai una run. Lo reggi, lo alzi. Sì. È come quando fai una run contro un Jinteki, ha due avanzamenti su una carta e lui dice che non rezza nessun ice. Che fai? Guarda, ci sono qualcosa. Eh sì. Mannaggia te. Sono sempre più belli i Jinteki, restano sempre migliori. Sì, sono quelli più epici, cioè quelli che ti fanno raccontare di più delle storie fighissime. Esatto. Guarda, io l'impressione che ho avuto è, giocando, e questo me l'hanno confermato parecchi, giocare il Jinteki, giocare contro il Jinteki è sempre divertente. Cioè, giocare contro il Fast Advance è una gran rottura di palle, ti annoi. Anche giocare anche il Fast Advance. Però il Jinteki è divertente, assolutamente. Bene, Hostage. Ok. È una carta blu, costa 1, è un evento double, quindi ti chiede 2 click per essere giocato, e faction cost 2, quindi 2 di influenza, search your stack for a connection, quindi cerchi una connessione nel tuo mazzo, la riveli e la aggiungi alla tua mano. Puoi installare questa connessione pagandone il suo costo e poi rimischi il tuo mazzo. Quindi fondamentalmente mandi qualcuno a prendere chi ti serve e lo tieni sotto ostaggio. A me piace come carta, non so quanto sarà utilizzata, però è una bella carta. Se ci pensi, non è un evento doppio, perché ti fa anche installare quello che vai a cercare. Esatto. Quindi sì. È come un... come caspita si chiama quella criminal per gli S-Breaker? È uno special order. Esatto. Special order più install. Allo stesso identico costo, però ti vai a prendere quelle carte fenomenali che ti servono all'inizio, tipo Katie, tipo Professional Contact, tipo... insomma... l'altra connection, non mi ricordo mai come si chiama, quello che quando rezza un ice guadagni un credito. Sì, questa qui veramente è fortissima, ti permette di giocare a Maketi in un Oper, ti permette di giocare... è forte, è proprio forte. Diciamo, magari le risorse non le giochi quasi mai in un Oper per il paura del trash e tutto, però sicuramente tu la tua Katie Jones la vuoi all'inizio, quindi potersela andare bene. Anche se la giochi in 3P, secondo me 4 come qualsiasi tutore. Sì, fra parentesi, se tu ti ritrovi già che hai tre personaggi interessanti che stai mettendo in 3x perché li vuoi di primi turni, metti che stai giocando Andromeda proprio con l'obiettivo di avere di prima mano questi personaggi qua, io nel momento in cui ho un hostage tolgo uno da ognuno di questi tre personaggi, quindi libero tre slot, ci metto tre hostage, così posso scegliere senza contare ma avete seguito un po' nel discorso casi, no? Sì, ma in certi casi guadagni anche influenza come professional contact, cioè giocarne uno e tre di questi, altri comunque le possibilità di averlo in gioco in early, perché sono 4 contro 3 a discapito del rischio di trashabilità, se vogliamo, però hai liberato, cioè hai pagato fondamentalmente due influenze in più, se vuoi fare 3-3 hai risparmiato due influenze, cioè è interessante come composizione del mazzo questa carta. Sì, ti libera, interessante. Ti libera l'influenza in un certo senso. Io un 4 glielo do tranquillamente, mani basse. D'accordissimo. Anche perché dopo arriviamo all'altro contatto, quello che mi ha fatto strappare i capelli, e quello è da tutelare assolutamente. Quindi 4,5 benissimo per me. Sì, sì. È un 4 come qualsiasi tutore, diciamo. I tutori partono dal 4 di base. Quanto mi riguarda. Confermo. Tranne l'Accademia degli Sfigati Ice. Sì, va bene, passiamo a quella dopo che è molto interessante. Invasion of Privacy, Operation Double Grey Ops, MBN, costo di influenza 3, come costo addizionale gioca, spendi un click, Trace 2, quindi una Trace molto bassa, cioè esattamente la Trace pari al costo di quanto hai giocato la carta. Se ha successo, rivela la mano del runner e trascia un numero di risorse e o eventi dalla mano fino a un ammontare di carte pari a quanto tu hai ecceduto la trace, quindi la forza della trace. Se invece è unsuccessful, quindi se la trace va male, prendi una bad publicity. Io dico due cose e poi faccio parlare voi. Già una carta che fa un effetto e non ti dà la bad publicity, cioè te la dà solamente quando tu fallisci, già secondo me ha molto senso. Poi chiaramente questa carta avrebbe tante tante cose da raccontare, ve le faccio dire a voi. Riccardo? È un aratro, non è una carta, è potentissima. A parte i danni non prevenibili, perché esatto. Tanto per gradire ai vari mazzi... tag and bag NPN o sì. Anche un tag and bag normale costa un po' tanto di influenza, però un tag and bag Wayland diciamo che ci può stare assolutamente, forse ci deve stare, ma con l'identità base NPN, un invasion of privacy di primo turno, tu lo metti a sedere un runner perché gli hai trasciato tutta l'economia che hai in mano, oppure ha pagato per superare una 3-4. Che non è poco. Un Andromeda con le sue nuove carte che conta su tutta economia Barst. Una Trace a 4 più qualcosina che ci vuoi buttare. È devastante, veramente. Secondo me è veramente, veramente, veramente forte. Io la vedo più pesa non nei primi turni, ma proprio come forma di danno. Cioè, come. Perché poi ricordiamoci che nelle future carte, poi magari ne parlerò nelle prossime puntate, c'è una carta che ti fa i danni pari al numero di punti agenda che hai rubato al turno scorso. Me la ricordate? È tipo una roba tipo Vendetta, una roba così. Quindi cioè, la quantità di carte che fanno danni aumenteranno, quindi questa qui se ti sei accumulato un po' troppe risorse o eventi in mano è veramente bestiale. Chiaramente dipende dal tipo del mazzo, in un mazzo che ti vuole flatlineare assolutamente sì, è chiaro che la tieni per quando poi gli metti in coda uno Scorched Earth. Però sì. Sinceramente se io con l'NBN base mi trovo questa carta di primo turno, tu ha voglia a pescare prima che ribecchi l'economia, comincio a usare click invece di fare soldi e runnarmi. Spari sì. Una di questa, subito dopo un'agenda, e ecco lì che il gioco, insomma, specie se è un astroscript, sta abbastanza dalla tua parte. È una carta molto molto interessante in un NBN che tagga, anche perché quelle che non ti distruggo per i tag no? Te le faccio scartare dalla mano le risorse, sì. E soldi, sì, la carta control per eccellenza. NBN si sta proprio connotando come il mazzo controllo, no? E mi piace un sacco come cosa, Sì. È un 4,5 netto per me. Sì, sì, per me anche, anche per me 4. Francesco? A me pure piace tantissimo lo Scorch Dirt, appunto, come dicevate, dell'NBN, anzi si aggiunge proprio allo Scorch Dirt. Già sto pensando, cominci il primo turno con una bella capatina. Beh, oddio, te la rischi un po' se cominci con Edge Fund e invece non pesi, perché è vero che gli entri in mano perché gli entri matematicamente e puoi scartarlo, però poi gli dai campo libero sul deck, quindi la fortuna ha sempre due facce. Alla peggio scorrerà un'agenda e gli spari un mid-season, dai, se vuoi che sia. sì, però i soldi non è che te... esatto, i soldi non è che li raccogli da per terra. Però no, la carta è veramente figa. Come dicevi te, la bad publicity la prendi solamente se va male, ma teoricamente tu questa la lanci quando andrà bene, non quando non sai se per far spendere soldi a run, perché io comunque due click ce l'ho buttato a quel punto, quindi non è una carta che uso tanto per, ma è una carta che devo andare lì e farti male e darti proprio le mazzate dietro al collo. E pure per me 4,5, cioè veramente figa. Beh, per quanto mi riguarda, ragazzi, knowledge is power. Anche solo il fatto di poter vedere la mano del runner, anche se non puoi trasciare niente, ti fa capire esattamente in che acque sta navigando. Cioè, se c'hai il 3 pair di corroder in mano, se c'hai il... e quindi dovrà pescare, se c'ha dei virus che sta aspettando di giocare per non dichiarare le mosse, non so, un medium che non vuole calarlo lì per evitare che ti costruisci subito il castello sulla rendi... Cioè è fenomenale, riveli la mano, fai danni tra virgolette selettivi, nel senso che appunto, come già detto, gli puoi trasciare, lo puoi zoppare, ammorbare bruttissimo in qualsiasi fase del gioco, e oltretutto non ha nessun comeback, cioè non ha condizione, non ha, cioè, deve semplicemente passare la trace. Sono danni, conoscenza, economia negata, guadagno economico, guadagno di click, perché quelle carte bene o male le dovrà ripescare. Cioè, fotonica, veramente fotonica. 5, assolutamente. Senza contare che io poi ho una particolare predilizione per questa carta, che era praticamente l'anello mancante del mio NBN Iceless. 5, assolutamente. Proprio una carta sbroccata come Season Replacement, cioè, che tra l'altro sinergizza anche abbastanza bene con questa qua, perché appiozzandogli bruttissimo l'economia tu riesci sempre di più a stare sopra, e questo stai sopra, e con Mid-Season stai sopra, con l'astro stai sopra una dopo l'altra, alla fine il divario si fa sempre più ampio andando avanti con la partita. In più questa carta non perde effetto in nessuna fase del gioco, proprio in nessuna, perché il late game ti può trasciare un cagnolino che derezza, per dire, in early puoi trasciare l'economia, in mid puoi trasciare una Ketty, puoi trasciare, che è sempre utile, sempre lì, cioè, se non, non lo so, è veramente fortissimo. E poi scegli tu cosa trasciare, quindi effettivamente... Sì, esatto, se c'ha la fezza gliela puoi anche lasciare. Va bene, diciamo che siamo tutti quanti unanimi sul fatto che appena arriva 3 per sui mazzi NBN controllo. Questo tra l'altro è il primo prodotto di Jackson Howard, il primo giocattolino che ha tirato fuori, chissà cosa tirerà fuori ancora lui. È proprio di Jackson Howard che stiamo per andare a parlare. Chi è questo benedetto Jackson Howard? È un asset di NBN, costa 0 da rezzare, 3 da trasciare, quindi già un bel rapporto 0-3. E quando è rezzato ha faction cost 1 NBN, non so se l'avevo detto, e come abilità clicca e pesca due carte, quindi è veramente già eccezionale. E non, come se non bastasse, se lo trasci e non chiede un click per trasciarlo, quindi lo puoi fare come paid ability, lo rimuovi dal gioco, e sì, esatto, quella è una forma di pagamento. Lo rimuovi dal gioco e mischi 3 carte dall'archivio nel tuo mazzo, plausibilmente 3 agende che Noise ti sta venendo a prendere. Vabbè, io gli do un 5 automatico, vediamo perché, ascoltando voi tre. Potrebbe Biotic Labor. questa è una carta che è allucinante, cioè se quella lì era una della prima Radro, questa è una trebbiatrice portaerei, perché è veramente clamorosa, fa tutto, fa. Sì, sì, è sbagliato. Ti fa... Ma non è sbagliato, cioè il Fast Advance, le carte di Fast Advance sono carte sbagliate. Questa qui a livello di gioco è una carta molto forte, però non rovina il gioco, non rovina il gusto. Ti permette cose molto interessanti, ti permette di pescare. Ma a Noise che non gli rovina il gioco. Chiedilo a Noise. Ma dipende, anche questa storia chiaramente gli rende le cose più difficili, ma le rende molto più difficili a chi? Al Noise orrendo, che passava tutta la partita a installare virus e poi ti faceva la sua singola run sull'archive. Sì, cosa sta facendo sta carta? Non sta rovinando il gioco, ti sta dicendo tu non fai una run sugli archivi, ne fai N. Va sì. Benissimo, mi piace, anzi rovina il gioco di della deformazione brutta di un mazzo bello che è quello di Noise. Quindi fa tutto questa carta, cioè aiuta la corpo a pescare, le corpo secondo me pescano troppo poco molto spesso. Sì. Ed è un problema che mi trovo con il Fast Advance tante volte, cioè mi trovo a dover pescare, non so come fare perché non ci posso mettere come si chiama l'Anonymous Tip ma ce li metterei. A me, io le partite che perdo quando gioco il Fast Advance le perdo perché non mi arrivano le agende che stanno nelle ultime 10 carte. Quindi questa carta aiuta tantissimo in generale a pescare le corpo, che è una cosa positiva. Brutta mano con 4 agende in mano? Clic, pesco, fine turno le metto negli archivi, se proprio qualcuno mi va a fare una run le rimischio. Quindi ti aiuta anche con le brutte mano sfigate di apertura o comunque in qualunque momento ti ci trovi. Ti aiuta anche a fare quel trick bastardo del pesco e finisco il turno scartando le agende che ho dalla mano, e poi esatto. se me vai a cercare su archivi te le rimischio. Esatto, il gioco delle tre carte ed aiuta una cosa ed è una cosa molto positiva secondo me, perché ti aiuta a contrastare la sfiga, che è sempre bello quando hai una carta del genere, perché il fatto di iniziare la partita a mullico 4 agende in mano, vabbè, ti piace vincere facile, orrendo. Avere un Jackson Howard e dici vabbè, perfetto, ho un inizio brutto perché ovviamente sto mettendo un tappo, però comunque non ho automaticamente perso, è qualcosa di interessante, bello anche per il gioco proprio. Guarda, un 6 su 5 secondo me questa carta, costo 0, trash 3, stupenda. Chi deve parlare ancora? Cesco? Beh, quello che si doveva dire si è già detto, è sbroccato, cioè costo di influenza 1 la devi infilare dappertutto, non ha proprio senso non giocarla, forse anche l'ultimo punto influenza che ti rimane dopo che hai messo le carte che devi mettere per far girare il tuo mazzo. Questo è semplicemente un power up devastante, virtualmente è intrasciabile, che te la puoi rimuovere per rimescolarti tre carte. Sì, guarda, ci fai una serie di trick infiniti in qualsiasi momento, tipo... se te la vuoi far trasciare te la puoi rimescolare col prossimo Jackson Howard, peschi due carte anziché una, ti vai a cercare gli Scorched, ti vai a cercare l'economia, ti vai a cercare tutto. E non hai paura di è un motore devastante. La cosa bella è che non hai paura di imbuffarti la mano di agende, perché nella peggiore delle ipotesi le scarto e poi le rimischio. Finalmente le puoi scartare e non devi giocare sul ma ci andrà o non ci andrà se le scarto. Boh, facciamo gli ignori e speriamo. No, le scarte le metti al sicuro, le butti nel mazzo. Quindi pronte di nuovo ad essere scorate. È proprio incredibile, oltre al fattore anti-noise che senz'altro è determinante. Fai giocattoli, cioè, ci vuole bene a tutti. Sono diciamo appena che, stato a Disney, quindi mi voglio ancora più bene. Diciamo che forse quella è l'unica cosa negativa, che essendo basso costo influenza è prente auto-include. E avere le carte auto-include non è mai una cosa che a me piace molto, tipo il fatto che l'Edge Fund sia auto-include, perché è l'unica carta d'economia pesante che finora c'è. È una cosa che non è bellissima. Jackson Howard secondo me sarà la stessa identica cosa, la vedremo prente su tutti i mazzi, o quasi. Sì, decisamente sì. Ok, passiamo a un'altra pure molto interessante che secondo me ci dà da parlare. John Masanori. Ah, io già lo amo. Esatto, è una risorsa connection, costa 2 da giocare, è neutrale, quindi la potete mettere dove pare, non costa influenza. La prima volta che fai una successful run, peschi una carta. La prima volta che nel tuo turno fai un unsuccessful run, prendi una tag. Quindi è una scommessa, cioè si alza la posta in gioco del runner dicendo io mi impegno a fare successful run e quindi pescare una carta in più, e se invece perdo questa scommessa mi becco la tag. Ah, chiaramente è una connection, è un personaggio, quindi è unica, la potete giocare in 3x, ma una alla volta a tavola. Commenti? È un'altra carta di efficienza dei runner, cioè come Desperado e i data sucker ti fanno fare run archivi per guadagnare un credito e avere un segnale sul data sucker, questo in aggiunta ti fa anche pescare una carta, l'ennesima carta efficienza. Con Desperado e John Masanori a terra fai run su archivio e fa professional contact. Sì, esatto. E quindi obblighi fondamentalmente oltretutto a mettere eyes, eccetera. La parte negativa può essere anche positiva, perché per esempio col data leak reversal, sì jack out primo run, una carta molto bella, cioè non è Jackson Howard, ma è una gran carta, a me piace molto, devo dire. Se può trovare gioco, è molto è molto runner, non la vedo finora nei mazzi che giocherei io, però mi rendo conto che nel mazzo giusto è una gran carta, assolutamente. Io appena ho visto questa carta qui mi sono subito proprio apparse davanti agli occhi, tipo la Madonna, due carte che sono Data Leak Reversal e Doppelganger, cioè questa carta ti permette oggettivamente di avere, non dico una condizione di vittoria, ma quasi, nel senso che con un Doppelganger ti puoi permettere di fare una successful, pescare subito dopo senza clickless, fai la seconda run jackoutando, beccandoti un underrun, la più safe che puoi fare, trasciare due carte e rimuoverti il tag. Cioè, a costo due soldi tu hai pescato, ovviamente un turno, hai pescato una carta, hai trasciato due carte, è potentissimo. Ed ha senso la cartina dei criminali che rimuove il tag ad un soldo ritornando in mano. Non dico che ci puoi fare un mazzo attorno, nel senso che vinca di questo, però in quelle fasi di stallo, in quelle fasi soprattutto in cui magari sei sopra ma non hai ancora il dig necessario per andare a scovare tre carte nel mazzo, tre carte in mano, oppure in cui te la rischi troppo contro un Jinteki, questo genere di cose qui, tu pazienti turno dopo turno, macina dopo macina, e continui a pescare carte, quindi ad andare comunque avanti finché i soldi te lo permettono. Col fatto poi che ora ci sono risorse che ti danno soldi all'inizio del turno clickless da runner, questa situazione può perpetrare per diversi turni. In tutto questo stiamo magari gonfiando un data sucker, in tutto questo stiamo trasciando delle agende, stiamo trasciando delle trappole, stiamo rompendo le balle forte, stiamo rallentando, però comunque ci stiamo avvicinando alla vittoria, il tutto con una carta neutrale. Sì. Cioè, che costa 2, fantastico, costa anche poco. Fantastico, e che può essere tutorato. Sì. Fantastico. Francesco? Io sinceramente, a me tutto questo entusiasmo non ce l'ho, anche questo scenario appena descritto presuppone che la corp passi il turno a pesco soldo soldo passo, cioè che non faccia nulla, cioè, che non si opponga a questo ordine che tenta il runner di instaurare. No, diciamo, cioè, è una condizione che va avanti fin tanto che la corp permette che vada avanti. Esatto, cioè anche questo tu dici che comunque alla fine, cioè, la run la dovrai pagare in qualche modo per entrare, perché non è che ti faccio entrare così. Ormai parliamoci chiaro, i data sucker e stanno in ogni mazzo, in pratica. Se devi mettere, a meno che non giochi noise, in ogni mazzo metti il desperato, quindi ormai l'archivio è diventato, non ti dico il target principale perché c'è l'R&D interface, l'HQ interface, ma poco ci manca. Quindi ormai fare una run così tranquillo, beato e pacioso, libero, non la fai più. Il run, la corp ti mette una tassazione in ogni dove, insomma, ti tassa pure le mutande oramai, cerca di fare quello. Anche solo per l'esistenza di Dirty Laundry. Quindi esatto, cioè perché ti devo regalare, se c'hai un desperato, un Dirty Laundry sugli archivi, ti ho regalato 4 crediti così, tanto per, cioè, no, non, scritto giocondo in fronte, insomma, quantomeno cerco di tassartelo il più possibile. Ora, per carità, è una carta in cui quando la giochi devi andare sul sicuro. Secondo me non è una carta che ti può durare troppi turni, nel senso che tu giustamente la vai a giocare, sfrutti appieno il motore di pescaggio che ti può dare se la run va bene per qualche turno, può essere una parentesi di mezzo, però insomma io per come gioco io faccio fatica a trovare spazio per metterla, ecco qui. Poi magari esce un deck molto divertente da giocare che non ci ruota attorno al 100% ma sfrutta questa sinergia con altre carte, è meglio così, insomma. Però vedo bene, non mi fa impazzire. A me piace da matti. Vabbè, vedremo chi avrà ragione. Passiamo velocemente attraverso Lockpick, che costa 1. È un cos'è? Un programma? No, un hardware. Stealth, quindi di nuovo questa tipologia stealth che troviamo anche nel Netrunner originale. Costo di influenza 3, ti dà un credito ricorrente e usa questo credito però solamente per i decoders. Ora, cioè gli spacca, cioè vogliamo, sì gli spacca Codegate. Vogliamo passare oltre velocemente dandogli il beneficio dell'utilizzabilità futura? No, io ti dico solo una cosa su questa carta. Questa è la mentalità del cacchio della Fantasy Flight, che lascia le cose appese. Non ha senso, ha inserito questa meccanica stealth e poi, che è già insomma un limite alle cose che puoi farci, in più gli metti un ulteriore limite sulla tipologia dove puoi utilizzare questo credito, ed è su non ha proprio senso, onestamente. C'è una carta che però non c'è. Sì, esatto, cioè quella è perfetta per una carta che ancora non esiste. Quindi è merce la fresca per il pawn shop. Sì, questo sì. Sono due crediti, la puoi vedere così anche. Con Kate sono tre crediti. È vero. Vabbè, ragazzi, dai, passiamo oltre. Poi mi riservo di riprenderla su quando magari esce qualcosa, tipo un Codegate. Cioè, scusa, un decoder, un Codegate Breaker. Sì, ma se anche uscisse stealth, tipo gli attuali spacca sempre che c'è Clock and Dagger, cioè ma qualcuno l'ha mai provati per ora? No, non credo, appunto. Quindi anche se esce lo spacca Codegate più bello del mondo, che c'ha forza 18, con 0 crediti gli do più 18 e con 0 crediti spacco 18 Sabrutin, cioè, quindi, con un credito forza 0, esatto. Cioè vuol dire almeno questo lockpick almeno una fottuta volta, non lo so, capito? Insomma, manchiamo di motivazione per utilizzare questo lockpick. Un pessimo ponte per la prossima carta, che infatti è Motivation, che costa 0, è una risorsa, e faction cost 1, è una carta shaper, cioè mi pare ci sia scavenge che dà da mangiare ai piccioni, e quando il tuo turno comincia puoi guardare la prima carta del tuo mazzo. Questa è una carta che sarà fortissima in futuro, secondo me adesso non ha molto senso. Voi che ne pensate? Sì, è una carta che rischia, è una di quelle carte che brutta non aggiunge niente al gioco e che rischi delle cose molto brutte a livello di combo, secondo me. Non mi piace. Per nulla, cioè. Se in futuro ci saranno abilità strane per cui tipo nomina una carta, se esatto, di quel tipo succede questo, Motivation ci potrà avere un senso, però proprio una cosa brutta, cioè, è dove spero che non vada a finire questo gioco, sinceramente. Sì. Combo strane. Passiamo oltre, non gli diamo nemmeno il voto. Sì. Next Bronze. Allora, è un Ice Codegate, tipologia ulteriore Next, tutto scritto maiuscolo, quindi urlato. Costo 2, ha 0 di forza, però attenzione perché è un HB e ha 2 di influenza. Attenzione che Next Bronze ha più 1 strength, quindi più 1 di forza per ogni ice di tipologia Next che è rezzato. E la subroutine che ha è chiaramente End Run, e a me mi stuzzica molto, nel senso che chiaramente adesso non ne vedo particolare efficacia, però metti che ne esce anche un altro paio di tipologie next, posso cominciare a pensare di fare un mazzo HB che veda solo i next come tipologia, e vaffanculo i Byroid che li rompo con i click. Esatto, assumendo che Next è il nuovo Bioroid, quindi che sarà la nuova tipologia di Ice HB che vengono fuori, questa non è una cosa unica che hanno fatto, sono fenomenali, a me piacciono un sacco. Un mazzetto con tanti Ice, di per loro piccoli ed economici, che però diciamo ti spingono a installarne tanti proprio perché hanno tutte queste abilità che scombano l'una con l'altra insieme all'identità Next... Ti accompagnano nel late game, cioè pian pianino tu più ne rezzi e più loro ti seguono diventando sempre più forti, quindi sì, ha senso. Esatto. Mi piace molto, insieme all'identità Next Design e i suoi, diciamo, 6 click gratis inizio turno, è un mazzo molto molto interessante, anche perché, a parte che non è un pass advance, quindi di base è interessante, quindi... È un mazzo comunque che spinge a fare run, cioè sto gioco alla fine è metto server, metto gli ice e l'hacker deve fare run. Qualsiasi cosa spinga a fare questa cosa, che è il cyberpunk, a me piace, a me piace un sacco. Per me è un 4, forse anche 5 per il futuro, ma no, è un 4 come validità del gioco. Però. Sì, io infatti do un 3 con un potenziale 4 per il futuro. Cesco? Sì, sono d'accordo, la cosa carina che c'è adesso sul momento è che nonostante ci sia scritto 0, anche se ne è installato uno solo, comunque c'è forza 1 perché si autocomprendono. Non è affatto male. Io spero tanto che non degeneri sta cosa. Cioè, perché già se fanno un code gate, una barrier e una sentry, avere 12 pezzi di ice, cioè se ce ne hai 6 installati o 7, sì, cacchio, triggera troppo. Cioè, mi sembrano veramente molto molto molto forti, soprattutto se sono tutti quanti low cost. Ecco, bisogna un po' vedere come la bilanceranno in futuro. Giudicando la carta di per sé, direi 2, un code gate che fa un end run a forza 1 per costo 2. Sul futuro, boh, il voto può soltanto aumentare per il semplice fatto che ne esistano ancora, quali che siano, cioè purché non siano illeciti o cose particolarissime. Sì, 2 con l'esponenzialità del futuro. Oh, ci stiamo abbassando qui, eh? Sei partito con 2 più un voto per ogni prossimo pezzo Ice Next che uscirà nelle prossime espansioni. Sì, fino ad arrivare anche a 6. Sì, voto, esatto, finale, quindi. Perché non avrebbe senso stiamo in linea sull'abilità. Sì. Senti, Francesco, che ne pensa? Ma io come carta gli do 0, appunto perché non vedo perché debba giocare un Enigma in questo momento, sì, che è molto più forte. Per quanto riguarda il discorso dei Next, bisogna vedere quanti e come ne tirano fuori, perché come dice Cesco, già se loro vogliono farmi, basta un code gate, una barrier e un sentry, sono 9, potenzialmente a costo 2 hai tirato fuori un ciccione a forza 9, un code gate a forza 9, che per buttarlo giù gli devi tirare l'atomica, un code gate a forza 9. Sì. Quindi, cioè, non ha senso, quindi non possono uscire, cioè non può uscire una sentry e un barrier che diano forza 9 a questo signore qui a costo 2, perché non ha proprio senso. Quindi, boh, secondo me è una delle cose che verrà tagliata proprio secca, perché o mettono una limitazione di qualche tipo, un vincolo di qualche tipo, non lo so. Sì, il vincolo lo puoi mettere come costi degli ice prossimi, magari su quello che costa meno, poi ce ne sarà uno che costa 5. Oppure magari i prossimi avranno abilità che sinergizzano col next diversamente, non so, una subroutine particolare in più per ogni next, oppure costerà meno, esatto, per ogni next. Ecco, vediamo quello che esce fuori. Poi comunque sia, ammesso ciò, bisogna vedere pure come si amalgama il tutto, insomma, cioè se c'hanno rischi di fare un late esplosivo, un early troppo blando o viceversa, bisogna vedere come va. Quindi per adesso, giudicando la carta in quanto tale, gli do proprio 0. Ok, passiamo oltre, andiamo a Pawn, è il primo dei programmi che vediamo della serie Kaissa, cioè programmi tutti incentrati sul tema degli scacchi. E questo, essendo il pedone, è il meno costoso, tant'è che costa veramente 0 anche di memoria, e è Anarch chiaramente, con un click dopo che l'hai messo. Allora, innanzitutto fughiamo questa idea che funzioni come il Parasite, perché l'ho sentita troppe volte. E tu quando lo giochi te lo metti a terra dalla tua parte, poi con un click lo metti dove te pare a te. Quindi non è che non fai come Parasite che appena lo giochi lo già lo osti da qualche parte. E però lo devi mettere dove te pare a te con dei limiti, cioè lo devi mettere sull'ice più esterno del server, e deve essere un central server, ok? Quindi ogni volta che fai una run muovi dall'ice dove si trova all'ice ancora più interno del central server. Se quest'ice chiaramente non c'è, quindi se non riesce a muoversi più avanti perché è già all'ice più vicino, lo trashi e installi, quindi senza pagarne il costo, un programma dalla tua mano oppure dal tuo mazzo, ignorando il costo. No, scusate, dalla mano e dall'archivio, sì, dalla pila degli scar, quindi non dal mazzo. Ok, che ne pensate? I Kaisa sono stati, credo, sì, più o meno spoilerati, sì, sì, tutti, penso. Mo adesso almeno quelli che rappresentano pezzi di scacchi. Manca il re. Onestamente, l'idea è fichissima. È una cosa geniale questa degli scacchi. Quanto giocabile non lo so, onestamente. Però diciamo che se sarà mai fattibile questa storia del gioco degli scacchi, pone una ottima aggiunta, perché effettivamente è un install facile, soprattutto è un reinstall dalla pila degli scarti, che non è male per niente come cosa. Ripeto, è una carta che se fai il mazzo Kaisa ci va. Se metti i Kaisa solo splashati per alcune delle loro abilità, oppure non li giochi affatto, è inutile, tipo, certo. Quindi è difficilissimo dargli un voto. Può essere un 4, ovviamente un must have, come uno 0, dipendenza dal mazzo. Però insomma, è un mazzo Kaisa, è qua. Beh, di base, secondo me questo qui è lo scacco che secondo me non verrà giocato per un innanzitutto questo è lo scacco su cui Mitsubaku ha da dire più di tutti, perché la volta che ho stato lì sopra ti riprende Mitsubaku in mano e tanti saluti al pedone. Ma similmente, a ben pensare, a meno che non ci sia la console spoilerata, appunto, che fa triggerare il primo click di Austin dei Kaisa gratis, è una giocata. Va messo lì, vanno fatte N run per farlo arrivare in fondo. Di tutte quante queste run, la corp deve decidere di non trasciarsi nessun ice per trasciarti il pedone che è arrivato in fondo. Resterà un pezzo di ice che tu hai deciso di trasciare, perché così l'avresti rettato gratis col pedone, senza invece installarlo dalla mano, non si sa perché. Secondo me è proprio brutta, meno che la regina famosa non sarà un ciccione cosmico, no, devastante, la regina le vacche è l'identità, Reina Roja. Infatti, secondo me il re non lo vedremo mai perché è il giocatore. Dici? Sì, in questa rappresentazione la regina è quella che fa le cose, il re se viene catturato, allora, muore. Dando per buona questa visione è proprio brutta, appunto. Secondo me allora non si farà mai scacchi, no, si utilizzeranno gli scacchi, ma di sicuro, cioè, tu non intenderai di installare gli scacchi col pedone, installerai gli scacchi con Katie Jones. Cioè, con i soldi che ti dà Katie Jones. Non installerai gli scacchi perché ci è arrivato il pedone in fondo, cercherai di non farteli trasciare. È vero che rischia tanto perché sono comunque ostati su degli ice, però c'è anche da dire che se lui comincia ad ammazzarsi gli ice per trasciare altri gli scacchi, hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto abbastanza il loro lavoro. Quindi non lo so, tra tutti il pedone è proprio brutto, io dico uno senza fine. Io aspetta, adesso c'ho un attimo un vuoto di memoria. A parte la torre che vediamo dopo, il cavaliere era quello a forza 7, sì, che è un icebreaker universale incentrato, no? A 2 brecca le sabbie, se ben ricordo, perché l'ice su cui si trova, sì, esatto. Cosa altro c'era? L'alfiere che faceva? Alzava di 2 il costo, no, di quella, no, quella è la no, no, abbassa, sì, di 2 la forza. Abbassa di 2 la forza, sì. Ok. No. Ok. Abbassa di 2 la forza. Sì. Ok. No, stavo pensando se potevano uscire altri Kaisa, perché se i Kaisa sono solo questi, effettivamente la forza del pedone è la ricorsione. tirar fuori nuovamente dalla pila degli scarti e reinstallare una torre in late, non so quanto possa aver senso, ormai gli ice stanno lì, forse quello che abbassa la tua forza, però boh, non saprei sinceramente. Bisogna vedere se non escono altri case, se effettivamente sono solo questi, che effettivamente non mi sembra così forte. Magari uno se lo può tenere un pedone, se fa il mazzo scacchi, un pedone di backup, ma giusto uno tanto per, che tanto gli costa zero. Considera che ha sempre déjà vu, è il mazzo Anarch, quindi... Sì, però questo costa di meno. Sì, sì, beh, è specifico. È double però, cioè lo devi prima installare e poi mettere sopra la Varis, quindi ti costa due sì, click solamente. Sì, però il discorso, a parte il discorso della console, però affinché tu possa spostarlo più verso il server centrale... no, ma poi quello che voglio dire è che comunque tu devi fare con successo una run, non una su quel server. Mediamente sull'archivio al massimo ci trovo un ice, ce ne trovo tre. Quindi io te sì. lo metto sull'archivio, poi ti faccio una run dove capita. Sull'archivio. O sull'archivio, o banalmente ti vado a trasciare una risorsa che tu hai messo perché c'ho un imp buttato lì a tavola. Ecco là che riciccia fuori un cavaliere o un alfiere. Però ne metterei uno di backup e basta. Quindi, diciamo... uno e mezzo tanto per. Sì. Vabbè, dai, questa l'abbiamo raccontata. Secondo me bisogna un attimo riprenderla in mano quando abbiamo un paio di data pack in più sotto i ponti. Passiamo a Project Ares, anche questa io la passerei molto velocemente. Non lo so, boh, vedete voi se ne volete parlare. È una costa 4. È un'agenda che costa 4 da avanzare, 2 punti agenda vengono erogati e è HP, quindi Ice Byroid. Quando metti appunti Project Ares, se il runner trascia una delle sue carte installate, per ogni avanzamento in più oltre al quarto su Project Ares. Se il runner ha trasciato almeno una carta, prendi una bad publicity. Ditemi voi. Questa esatto. È win more veramente, cioè, perché ho visto gente che faceva il mazzo esatto. con il mid season replacement e l'altro che chiudeva la partita senza carte a tavola. Però senti, se sei riuscito a fare un mid season replacement da 10, ma che cazzo ti frega, comincia a scorare le agende normali, non te ne frega nulla di overscorare questa. E poi gli hai stampato già le 3-2 all'HB, ma che gliene frega di una 4-2 a 3-2 a strafot, proprio non giocabile, non troverà mai gioco. Un mazzo divertente che fa tabula rasa con magari custom biotic che lo permette con l'influenza, ma da qui a dire che è giocabile è sensato, la vedo dura. Dai, passiamo oltre. Qualcuno altro ha da dire qualcosa? Taccia per sempre. Rook programma sempre Kaissa. Oh, questa è la torre. Costa 2, 1 di memoria. Quando lo osti, lo devi ostare su un centrale? No, lo puoi ostare dove ti pare, no? Sì, ostalo, sì. Dove ti pare. Uh-huh. Se già è ostato, quindi se usi il click per spostarlo, può essere ostato solamente su un ice che è alla stessa altezza, cioè che ha lo stesso numero di ice interni rispetto a quello dove si trova in quel momento. Position protecting another server. Oppure sullo stesso ice dello stesso server. Oppure sullo stesso server. Praticamente si muove come la torre, cioè si muove avanti e indietro, oppure a destra, se a destra c'è, a destra a sinistra se c'è, però solo alla stessa altezza. Il costo, l'unico effetto che fa questo programma è che il costo di ogni ice che protegge questo server è aumentato di 2, quindi è un signor effetto, soprattutto se chiaramente gli ice non sono rezzati, quindi direi in early al massimo mid game. Che ne dite? Questo secondo me è il pezzo degli scacchi, questo è fortissimo, si può giocare assolutamente fuori, si giocherà assolutamente fuori, perché poi insieme anche a Queen e il suo alla reina roja e il suo più uno al costo di Reds diventa un più 3 per rezzare. Sì, più uno. Più. Ah no, però sì, era più uno... il primo Reds che fa. Sta sbagliando, no? Più uno. Sì. Però insomma, diciamo che questa carta su un R&D la corp piange parecchio. Gliene puoi mettere più due. Non solo. Certo. Non c'è scritto da nessuna parte. Esatto, non c'è scritto da nessuna parte. Due la corpa è costretta a iniziare a tracciarsi gli ice, esatto. Che è quello che vuoi. È il pezzo di scacchi, non solo, in un criminal, perché no? È un criminal denial. Secondo me è una carta indipendentemente, forse una delle poche che indipendentemente che si giochino o meno gli scacchi, si può giocare comunque. Buonissima. Un 4 pieno, sono d'accordo con... Sì, praticamente best case scenario questa cosa rimane piazzata e la corp si dissangua a rezzare gli ice. Worst case scenario, hai killato un ice, cioè sì. Fortissimo. Lo metti 2. Sopra un che cacchio ne so, un flare sopra un archer pezzo morto. E finché lui vuole mantenersi quel pezzo di ice dovrà pagare caro tutti quanti gli altri. Viceversa, hai fatto un instant parasite per lo stesso posto. Sì, sì, però diciamo che rimane comunque instant e assolutamente non ci può fare niente, mentre il parasite lo puoi delayare. No, dicevo sì, è il pezzo migliore degli scacchi, del pack, e penso anche in generale, anche perché è quello che mi sembra un pochino più splashabile, perché comunque locchi un intero server, non solo l'ice in cui lo sta mettendo, quindi già questo ti permette di pensarci seriamente a metterlo fuori fazione, diciamo. Quindi sì, no, pure secondo me è molto buono come pezzo 4. Sì, un 4 mi sembra la sua giusta valutazione. Direi che con questo abbiamo finito. Ah no, scusate, c'è Swarm. No, abbiamo finito, vai tranquillo. Io direi che abbiamo finito, no? Vabbè, abbiamo finito. No, vabbè, dai, diciamolo che c'è questo ice che costa 8, si chiama Swarm. Erano di fretta, dovevano andare in stampa, hanno detto vabbè, scrivici quello che ti pare. Facciamo un ennesimo ice inutile per Wayland e l'hanno fatto. Costa 8 da rezzare, ti dà addirittura una bad publicity. Vabbè, a 5 di forza, però finché non lo avanzi non fa niente. E trascia, quando lo avanzi, per ogni avanzamento che c'è, trascia un programma a meno che il runner non paghi 3, cioè chiede anche al runner, sai, runner. Ho speso 8 per rezzarlo, ci ho messo anche altri un paio di avanzamenti sopra, non è che potresti non pagare 3 soldi affinché i tuoi programmi si rompano. Vabbè, non so che dire. Ah, scusate, anche la bad publicity, perché sai, ma io dico no, giusto, ma io dico no, ma quando tu nello stesso pack metti una carta che costa 5, fa la stessa cosa senza bisogno di un avanzamento e ha la stessa forza. No, fa una cosa molto meglio. Ti trascia un programma e non chiede al runner se vuole pagare 3. E neanche puoi pagare. Non ha veramente senso. L'unica cosa positiva di questa carta è che il faction cost è 4, sì, così agli altri non gli viene in mente di splasharlo per qualsiasi motivo. Questo è positivo. Secondo me... terribile questa carta, no, vedete, per worst carta del replacement psicographic sopra per ah sì, sì, proprio non avanzo la mia 3-5, butto gli attestamenti, esatto, sì, no, va bene. Comunque dai, riassumendo un po' di cartine belle le abbiamo viste. Il next, se diventa uno di tanti next, John Masanori, vabbè, Jackson Hour in Vision of Privacy, ma ancora dico Hostage, Mitsubaku. Gorman, sì, anche Geothermal Fracking ci è piaciuta e Celebrity Gift ci ha fatto parlare. Grazie veramente del vostro tempo, grazie per aver registrato la puntata invece che io, perché a quanto pare dovrò cambiare strumento per registrare le puntate di Skype, perché non mi funziona. E se volete salutare, dire qualcosa al grandissimo pubblico, quei quattro gatti che mi ascoltano, ditelo adesso, se no poi ci salutiamo. Siamo più contenuti. Ah, ok, tutta dai, roba, scrivono delle gran fate caccate, insensate, stupide, prolisse, e tutti se le vanno a leggere. Qua in Italia giochiamo il miglior netrunner praticamente del mondo. Madonna, almeno, Cesco, quanto così cazzo sei campanilista. Ma è vero, ragazzi, dai, è vero. Ci leggono delle fatte minchiate a cui tutti quanti danno credito. Vediamo delle partite fatte da cerebrolesi nevrotici che non sono in grado di contarsi i click, e questi qui fanno il meta, dettano il gioco. Non giochiamo un netrunner serio, sentato, potente, non produciamo niente. Producete, popolo, producete. Guarda, io devo dire la stessa cosa qui in Spagna. Giocano piuttosto bene, non sono imbattibili come a livello gli italiani di... almeno come era a livello di Agot. No, diciamo, il livello all'epoca, quando giocavo ancora a Game of Thrones, all'epoca gli spagnoli erano terribili, tremendi da battere. Qui giocano tutti piuttosto bene, non a quel livello internazionalmente, anche perché al contrario di Agot l'hanno ricevuto insieme a noi praticamente, Netrunner, quindi... Beh, tecnicamente noi ancora non l'abbiamo ricevuto così, però... Ma per fortuna, vedendo le traduzioni che girano qua, per fortuna... Io ogni tanto le posto su Facebook perché sono quelle in spagnolo, sì. Quindi... sì, sono veramente disarmanti. C'è da dire che loro era così anche nei libri. Molte delle traduzioni sono state obbligate da come è stato tradotto il Cyberpunk dall'alba dei tempi. Però veramente tradurre Ice con Yellow è terribile, è veramente una cosa indecente. Ma fra parentesi, Ice è un acronimo, quindi non lo dovresti tradurre. Intrusion Countermeasure Electronics. Ti... Quindi certo, è un gioco di parole. Potresti anche non tradurlo, no, perché dici, ti appelli al fatto, no, sai, è un acronimo, non lo possiamo tradurre. Infatti in italiano i libri Gibson non hanno Ice tradotto. Hanno Ice nero magari invece di Black Eyes, ma non è mai stato tradotto. Tutto sommato le premesse potrebbero essere positive. Va bene, dai, salutiamo qui i nostri ascoltatori e ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata di Medium, il podcast su Netrunner. Ciao! Alla prossima a te, ciao! I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.